Ci pensi mai, amore mio, a quando c'era tempo per noi due? Avevo l'aria di chi ha sempre vinto e mille dubbi dentro l'anima. Ma quella volta non avesti la forza di ricominciare accanto a me. Bambina mia, andando via, tu mi lasciavi solo l'anima. Fiume grande, lo sai, tu almeno lo sai, dove vanno a morire gli amori che qui nello spazio del tempo non trovano tempo e respiro per sé. Quando il vento si placa, la mente non sa dove ha perso la forza di andare più in là. E si chiamano solo illusioni per due le tue malinconie. Un'ombra e poi il corpo mio spezzava già la solitudine, e senza voglia, senza una ragione, io stavo già dimenticandoti. Ma poi un'amarezza grande veniva a dirmi: questa volta hai perso tu. Bambina mia, tu sei un concerto rimasto fermo ad un preludio. Fiume grande, lo sai, tu almeno lo sai, dove vanno a morire gli amori che qui nello spazio del tempo non trovano tempo e respiro per sé. Quando il vento si placa, la mente non sa dove ha perso la forza di andare più in là. E si chiamano solo illusioni per due le tue malinconie. Fiume grande, lo sai, dove vanno a morire gli amori. E si chiamano solo illusioni per due le tue malinconie. Fiume grande, lo sai. Su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.

piel tu cuerpo. Quiero morirme. Para soñarte y así tenerte cuando tú no estés. Pensieri miei e nei miei sogni mille volte ti bacio, sai, ti vedo per le strade, dove vai? Di me e di me che cercherai per un sì che darei. Un sorriso dei tuoi tra queste braccia vuote, nient'altro io vorrei. Tu sai sempre quel che dici e sai sempre quel che fai, mentre io esisto solo se mi già li attraversava ed eran belli. Se senti il cuore battere più forte, a me vieni a raccontarlo a me e mi chiedo dove sei, mi domando cosa fai. Sai cos'è la solitudine o di un altro adesso sei? Chiedi pure luna e stelle e ti giuro che le avrai, perché io esisto solo se mi vuoi. Di me che cercherai e mi chiedo dove sei, mi domando cosa fai. Sai cos'è la solitudine o di un altro adesso sei? Chiedi pure luna e stelle e ti giuro che le avrai, perché io esisto solo.

cabeza. Teme que el amor te deje fuera. Mientras sus ojos me piden que sea claro, que explique todo. Duda, solo duda, siento en mí. Duda, solo duda, de frente a mí. Sé que existe quien se explica todo. Los hombres y las cosas, el lugar, el tiempo. Más de mí no pretenderá nada, porque soy como el viento que busca siempre. Y duda, solo duda, ofreceré. Duda, solo duda, te daré. Pero el amor es casi inmaterial. Que nubla la mirada, lo altera todo. Y las dudas que siempre yo tengo, incertidumbre que siempre me ha vencido. Amo y cuando amo, sí soy yo. Sin duda siempre, sí soy yo. Y si tú me amas, pequeña mía, siempre junto a mí habrá ocasiones de alegría. Mientras parte la tarde callada, el ocaso de fuego te da su encanto. Ama y cuando amas eres tú. Sin la duda eres siempre tú. Ama y cuando amas eres tú. Sin la duda eres siempre tú. Ama y cuando amas eres tú. Rebrincando va en mi cabeza. Sin la duda eres siempre tú. Debe que el amor te deje fuera. Ama y cuando amas eres tú. Y si tú me amas, pequeña mía, siempre junto a mí habrá ocasiones de alegría. niente, cambiare modo di amare. Per due come noi, sarà semplicemente cambiare forma di amore. Per due come noi, sarà morire un po', ma per tornare a vivere. Inventeremo linguaggi nuovi per conoscerci e ce ne andremo, ma torneremo per non perderci. Saranno mai davvero due come noi, magari andranno per il mondo intero per due come noi. Sarà morire un po', ma per tornare a vivere. a proteggerti dal vento, dagli inganni del destino. Ero presente sul tuo cammino per sempre, sempre con te.